non un telegramma, un necrologio, volevo dire, pubblicato sull'Ora di Palermo, che poi sarà preso agli atti, facendo le condoglianze ai poveri parenti delle vittime della strage di Ustica. Quindi se il 2 luglio del 1980 qualcuno voleva andarglielo chiedere com'è che faceva un necrologio a queste persone, forse si cominciava prima a cercare e aver voglia di cercare la verità. Cosa si aspetta dalla politica oggi? Come dicevo prima, aspetto che il governo Renzi si attivi nel momento del semestre europeo con più forza, perché è evidente che dobbiamo imporre, pretendere dagli altri paesi che ci raccontino quella che era lo scenario di guerra che quella notte si stava attivando nei nostri cieli. Dalla Francia in particolare, quindi? Dalla Francia in particolare, perché questo dice, insisto, soltanto l'ex presidente Cossiga, e anche poi dall'America. L'America aveva un AWACS sopra la Corsica che vedeva tutto quello che succedeva, era fatto apposta per vedere quello che succedeva ovviamente nel Tirreno e nel Mediterraneo, quindi la collaborazione deve essere anche di stati non solo europei. Poi del Belgio, che aveva quella notte degli aerei nei nostri cieli, l'Inghilterra, le cui targhe appunto non sappiamo ancora, ma sono chiaramente presenti, ce l'ha detto la NATO, nei nostri cieli in quel periodo.